La richiesta è una richiesta abbastanza, diciamo così, prevista, annunciata, nel senso che già un paio di settimane fa alcuni degli avvocati di parte civile con cui avevo avuto occasione di parlare avevano, diciamo così, ipotizzato più che previsto, perché non sono dei degenti, e l'ipotesi di un procedimento perfino Rauti, che pur essendo ed essendo sempre stato al centro di tutte le inchieste sulle versioni nera, ed essendo stato l'artefice di quel convegno famigerato, più che famoso, tenuto nel maggio del 65 all'Hotel Parco dei Principi a Roma, che andava sotto il titolo La guerra rivoluzionaria, dove venne pianificata sostanzialmente la strategia che poi si Italia, partendo dal 25 aprile con gli attentati alla Fiera di Milano, la notte dell'8-9 agosto con gli attentati sui treni, uno dei quali, non mi stancherò mai di ricordarlo, esplose anche a Chiari, in provincia di Brescia, con poi la strage di Piazza Fontana, i tentativi di golpe di Borghese del 70, la strage di Piazza della Loggia. Sempre in quei giorni, a cavallo fra la strage e poi quanto avvenne a Pian di Grascino, con quel famoso campo paramilitare dove non si seppe, non si chiarì e non si è chiarito nemmeno durante il dibattimento di questo ennesimo processo cosa avvenne esattamente, anche allora si parlava e si ipotizzava e si temeva un colpo di Stato. Sempre quell'anno c'è stata la strage degli Italicus e poi nell'80 la strage alla stazione di Bologna. Quindi l'hotel dei parco, il convegno, l'Hotel Parco dei Principi è, diciamo, stato la grande madre di tutto quello che poi è successo e di tutto quello che i fascisti, ricordiamo però che non agivano mai per conto loro, ma come braccio operativo di, e anche il processo di Brescia per certi versi l'ha confermato, per servi dei servizi italiani ma anche stranieri. Scusa, parlavi prima di Rauti anche. La soluzione che è stata chiesta per Rauti è un dato giudiziario, però storicamente e politicamente è assolvibile. Mi sembra che sia abbastanza evidente che non lo è dal punto di vista né storico né politico, che poi manchino sempre da un punto di vista giudiziario gli elementi, le prove per poterlo condannare definitivamente ed esplicitamente, questo appunto una lacuna forse, o una sua capacità antiche, soprattutto di sfuggire a quelle che sono le maglie della cosiddetta giustizia. Secondo te perché anche per... Senz'altro, Sì, scusa. no, stavo solo ricordando che anche l'ultima sentenza emessa per la strage di Piazza Fontana, pur mandando assolti tutti quanti gli imputati, faceva un'affermazione molto esplicita che pur non potendo attribuire responsabilità specifiche e materiali agli imputati era comunque individuabile e riconducibile a quell'area, quindi ai neofascisti, ma come dicevo prima, i neofascisti ricordiamolo come braccio armato di altro, la responsabilità della strage di Piazza Fontana. Per cui è ovvio che da un punto di vista penale solo una sentenza per stabilire la colpevolezza di un imputato, ma da un punto di vista, come dicevamo, storico e politico, non è solo questo che almeno a noi importa ed interessa. Chiaramente il signor P poi accompagnò in quel famoso viaggio subito dopo il convegno al Parco dei Principi in Grecia tutti quei giovanotti fascisti che li abbiamo sempre ritrovati poi lungo la strada e lungo i percorsi e lungo le indagini che in Italia si sono susseguite dal 69 fino all'altro ieri. Ecco, anche a Francesco Delfino, l'ufficiale dei carabinieri, è stato chiesto l'ergastolo. Perché, secondo te? Ma probabilmente, come dicevo prima, perché c'è la manovalanza e c'è chi invece la manovalanza la usa e la manovra. Quindi, essendo in quel periodo un milite dei carabinieri, in particolare del SID, probabilmente, anzi, durante il dibattimento e gli stessi pubblici ministeri nelle loro richieste l'hanno ben specificato, manovrava coloro che poi andavano a seminare la morte in giro per l'Italia. Per quanto riguarda invece Maurizio Tramonte, secondo te reggeranno i suoi 1000 volte faccia e dietro fronte emersi al processo? Io non sono un veggente e non posso prevedere che cosa poi sentenzierà la Corte. Credo, per quanto possa valere la mia opinione, che alla fin fine, posso soggiungere un purtroppo, sarà l'unico ad essere condannato con una pena elevata, che poi siano 20, 25, 30 anni l'ergastolo, questo ribadisco, non ho la boccia di cristallo, la palla di vetro e quindi non posso intravedere cosa succederà. Indubbiamente i suoi voltafaccia, i pubblici ministeri l'hanno sottolineato, sono serviti o dovevano servire o volevano servire a lui stesso per confondere, per buttare delle cortine fumogene, per cercare di intorbidire ancora di più tutto quanto non fosse già stato intorbidito prima. Però sembra, per quello che posso aver intuito e compreso io, che le idee dei pubblici ministeri siano chiare e abbiano ben specificato e chiarito che le manovre di Tramonte sono appunto manovre, ma che la sua responsabilità, la sua partecipazione a tutta una serie di riunioni preparative e anche poi alla stessa materialmente esecuzione della strage ci sia. E quindi teniamo presente che Tramonte era il confidente di un maresciallo dei carabinieri, il quale già i primi giorni di giugno del 74 trasmise all'ufficio operativo centrale di Roma del SID quelli che vengono chiamati e sono conosciuti come gli appunti Felli, dal nome del maresciallo dei carabinieri che li trasmise e che raccoglieva appunto le testimonianze di Tramonte, il quale già all'inizio di giugno del 74 fece certe, se non ammissioni, confidenze, o comunque precisò chi poteva avere eseguito la strage, sia dal punto di vista di ideazione che poi esecuzione. Ecco, il processo è uno degli ultimi legati a quel periodo storico della tensione di Stato. Si può dire quindi perché ha un risvolto politico a livello nazionale anche? Ma che abbia un riscontro a livello politico nazionale, io credo, per i motivi che ho già delineato in apertura di questo collegamento, anche se devo dire che i media nazionali, tranne alcune eccezioni specifiche come la presenza ad esempio dello stupratore del Circeo e poi il pluriassassino Izzo, ha attratto l'interesse, ma più che l'interesse la curiosità dei media nazionali. Poi anche questo processo, che è durato la bellezza di quasi 2 anni ormai, perché a novembre compirà il secondo anno di vita, è stato messo abbastanza alla sordina, è stato considerato poco e non è stato sicuramente strombazzato come invece altre questioni ed altri avvenimenti. Certo che la rilevanza politica nazionale ce l'ha, come ce l'hanno tutti quegli avvenimenti che hanno prodotto morti e anche l'Italia sull'orlo di, come dicevo prima, più di una volta del colpo di Stato, ovviamente reazionario.